Ladies and gentlemen, and now Alessandro Milan and Oscar Giannino. Licenziato! Voi due siete superficiali, sciocchi, il simbolo di una vita sprecata. Basta! Basta! Basta! Prendi due elementi innocui se separati come nitrato e glicerina. Combinali insieme e avrai un esplosivo potentissimo. 24 mattino. Attenti a noi due. E allora, caro Oscar, siamo qui alle 8:19 minuti. E sono le 10. Sì, sono il 10. Sono le 10. Anche stanotte di sapere che mia figlia ha deciso che era giorno invece che notte. Quindi benissimo. Però io la amo. E soprattutto stanotte ero incalzato molto dai miei gatti, devi sapere. Ah sì? Sì, perché sapevano in anteprima quello che qualche giornale ha pubblicato oggi. Oggi Oscar, altro che banche, altro che la notizia del Monte Paschi, M5S. Penso che i miei gatti la sapevano già. Dici, ma che cavolo di giornalista sei? Non sai nulla. Cioè, ormai mi trattano anche loro. Perché ti parlano così? Come i figli. No, noi in gattese ci interroghiamo a lungo. Ogni tanto mi fanno delle domande. Di solito stanno muti quando io chiedo, però ogni tanto. E stanotte erano tutti eccitati. Devi sapere la grande notizia: dal Salk Institute in California, le prove. Si riesce a far rigiovenire i gatti, i topi. E loro sono molto felici perché dice, finalmente carne fresca, non come quella che ci dai tu con questi orrendi croccantini del pifo. Ah, non hai gatti vegani? Se mi sente Giulia Crivelli mi impicca, penso. No, noi non abbiamo gatti vegani perché, ohimè, amano il pesce e amano anche la carne. Però l'idea di avere topolini ringiovaniti, allora l'idea è naturalmente che... un giorno lo faremo anche con gli umani, non è una fesseria, è una notizia vera, però i miei gatti non interessano i topi. I topi ringiovaniscono. Di Oscar esultano. Esattamente, comunque la notizia però quello che i miei gatti volevano sapere è se fosse fondata l'idea che Berlusconi in realtà è il finanziatore per ringiovanire anche lui, capisci? Per tornare, non conta solo il verdetto di Strasburgo in attesa, conta anche l'effetto di questo miracoloso anagrafe, certo. Adesso voi direte, no, questi due scherzano, sono un po' cazzoni. No, perché in effetti devo dire che la politica offre non proprio cose esaltanti. Mi limito a dire questo. Guarda che abbiamo saltato i santi per colpa mia, già ieri, per colpa mia. Quindi oggi ci sono alcuni santi interessanti. Per esempio il Papa è santo, è Sant'Agatone, ma è il Papa eletto con l'età più anziana. Vedi che a proposito del ringiovanimento, pensa che quando fu eletto nel 678 aveva 103 anni. Ma dai. E lui adesso apposta dicendo duri pochi giorni. 103 anni. E invece, questo testimoniano le cronache, e invece durò 3 anni. Ma contavano gli anni come all'epoca della Bibbia, come Matusalemme. Non lo so, però l'idea chiara è ti eleggiamo e muori domani. E lui invece c'era un concilio di mezzo, quindi è una storia, pare abbastanza vera. E quindi insomma, siccome non si trovava d'accordo, e invece lui visse e i delegati al concilio li scelse lui. Poi Aldo, eremita, il cui culto è ben radicato a Pavia, è sepolto lì. E Gregorio di Nissa, un padre della Chiesa. E a me però piace tra i vari santi di oggi San Pietro Orseolo, perché pensa, San Pietro Orseolo tra i tanti potenti che la Chiesa ha santificato è stato un ex doge di Venezia e ha svolto un ruolo anche di un certo rilievo, un pacificatore in una Venezia che era reduce da anni di guerra civile interna tra case nobiliari, e che dopo la Chiesa lo ha fatto diventare monaco e santo, e come sempre la Chiesa aveva un occhio lungo su chi contava. Comunque, detto questo, cosa è successo oggi nella storia? Un giorno per me indimenticabile, quando da ragazzino il mondo che era intorno a me a Torino cadde nella tragedia, perché nel 1975 la Fiat oggi annuncia la bellezza, pensa un po' Alessandro, di 73.000 cassi integrati in un solo giorno. E per noi cadeva il mondo, perché i 70.000 erano quasi tutti a Mirafiori, quindi una roba, ecco, difficile da raccontare oggi. Oggi certo. Sembra che l'Italia sia sempre in ginocchio, eccetera, eccetera. Però ricordo precisamente che cosa significò per il mio mondo la notizia che la Fiat in 70.000 a casa. Ecco, una specie di tragedia. Allora, noi oggi vogliamo tornare a parlare di questa Italia degli imboscati, come l'ha definita Repubblica. Parliamone, sì, direi. Dirigenti, infermieri che non hanno l'abilità o hanno il 12% del personale tecnico sanitario della sanità italiana inabilitato alla funzione per cui è stata assunta. Sì. E tra l'altro sai che non sono sostituibili? Cioè significa che nell'organico gli altri, che non sono idonei, devono fare gli straordinari per coprire quello che loro non possono fare. Repubblica ritira fuori la storia oggi dei dirigenti della regione Sicilia che sono sindacalisti, 2800 su 15.000, e quindi inamovibili per questo. Poi in Sicilia sai che c'è il proliferare delle 104, ho scoperto soprattutto che il modo migliore per ottenere il trasferimento nella provincia per gli insegnanti è dichiararsi diabetici, basta fare un esame del sangue con delle belle zollette di zucchero, magari avere un medico che chiude un occhio, è più diabetici che influenzati, come giustamente titolavano. Esatto, e quindi hai la 104 per motivi personali, cioè inabile e disabilità oltre il 67%, e insegni nella tua provincia. Eh sì, perché a quel punto c'hai diritto all'assegnazione vicino alla residenza. Ma così si è scoperto per esempio che al San Camillo di Roma, cos'è che sono i portantini? No, gli infermieri che non possono esercitare. Esatto. Ne vedremo delle belle. Oltre 500 su 2008. Diamo il numero, però poi di Montepaschi ci devi dire una cosa, sì, caro Oscar, perché a proposito di infermieri e ospedali che non funzionano. No, di Montepaschi. C'è questa storia, allora forse li sapremo questi nomi. Poi c'è il balletto un po' strano, sì, per cui forse sapremo i nomi, ma ci sono dei giornali come La Verità e Libero che oggi i nomi già li pubblicano. Sì, perché in realtà i giornalisti di inchiesta economica finanziaria in questi anni, non tutti, i grandi giornali di solito tacciono su queste cose, però ci sono fior di signori imprenditoroni che sono lì, che hanno stati salvati dalle banche che ci hanno rimesso i soldi, De Benedetti, altri grandi gruppi. Cioè, insomma, ricordiamoci bene, cari italiani, che mentre il presidente dell'ABI per 2 anni vi ha raccontato che i crediti deteriorati erano a questi livelli pazzeschi, più del 16% il totale dei crediti fatti dalle banche italiane in sofferenza, perché c'era stata la crisi, perché le banche erano incolpevoli, ma erano incolpevoli anche i prenditori, erano tutti diventati cattivi pagatori e loro dicevano cominciate dalle piccole imprese. No, ricordatevi che sul totale dei crediti in sofferenza la percentuale più elevata è quella di grandi imprenditori, cioè di grandi imprese. Ecco, questo per non farvi sentire colpevoli, cioè le grandi imprese a cui le banche, i banchieri hanno deciso di coprire di crediti mentre a voi li negavano. Adesso vedremo se queste liste davvero rispecchiano questo criterio. Io devo dire che mi fa un po' ridere vedere il presidente dei banchieri chiedere le liste perché di solito serve a coprire le responsabilità bancarie. Vedere la banca truffata dal grande imprenditore mi scappa una risata omerica, capisci? Un po' quello che scrivono anche i giornali, cioè far passare adesso l'idea che la banca possa essere fallita, comunque abbia rischiato perché ci sono dei debitori che non hanno restituito i soldi. Il presidente dell'ABI è una versione ha parlato forse poco di credibile. Mendaccio bancario. Allora, le banche mi possono raccontare tutto tranne che non sapevano la condizione in cui l'ingegnere De Benedetti per anni e suo figlio incolpevole della verità per anni hanno tenuto Sorgenia, il grande gruppo energetico poi salvato da 600 milioni che ci hanno rimesso le banche. Allora, che sia stato il mendaccio dell'ingegnere De Benedetti, scusa, mi scappa da ridere. Comunque, noi allora abbiamo intanto un ascoltatore, Francesco da Piacenza. Avevamo fatto una promessa ieri, non c'era spazio, ma l'abbiamo richiamato. Lo ringraziamo per la pazienza, praticamente in linea da 2 giorni. Io ringrazio Francesco, voi. Grazie. Dica cosa ci voleva dire ieri. Ma innanzitutto, io sono siciliano di origini, ho 43 anni, quindi in realtà non vorrei fare torto ai piacentini dicendo che sono piacentino. Vabbè. Non sono piacentino, mi sembra giusto dirlo. Poi vuol dire una cosa che mi preme molto, cioè il fatto che Oscar Giannino ha sperimentato sulla sua pelle che cosa vuol dire essere una persona onesta, avere le idee chiare, essere molto molto molto preparato senza nulla togliere ad Alessandro Milan e mettersi tra virgolette in prima linea in politica. E cosa vuol dire essere poi messo da parte per il perbenismo e per la stupidità oppure per la cattiveria delle altre persone che per un'inezia, per una stupidaggine, per una cosa che non è sostanziale dovuto insomma mettersi da parte. Quindi questo accanimento nei riguardi di Beppe Grillo che hanno tutti i giornali e poi ecco, lì volevo arrivare Grillo. Perché non volevo questa grande premessa per dire che io mi scuso per la premessa, però ci voleva, perché non cerco solidarietà, però magari no, ma vado al punto, cioè, va bene, cioè la questione è, secondo lei ci sono troppi attacchi al Movimento 5 Stelle? Più che al Movimento, a quello che è alle idee del Movimento, perché io non sono un invasato come tanti altri che ho conosciuto e che conosco del Movimento, cioè sono alcuni che sono invasati, altri cioè invasati relativamente, cioè che sono... troppo rigidi, altri che sono ancora giovani, si devono formare. Io ancora sono giovane, però un po' meno. Va bene, però vede, dico, Francesco, veramente... no, perché così col dono della sintesi riusciamo a fare tutto, che lo spazio. Lei vede troppe critiche alle idee del Movimento 5 Stelle. Vabbè, ma adesso quello che hanno combinato ieri in Europa mi sembra un po' una figuraccia così da dimenticare nel giro di 48 ore, ecco, voler passare dai liberali, poi hanno votato e i liberali gli hanno detto no, scusate, non vi vogliamo più, insomma, come vogliamo definire, adesso non è questione di critiche, è proprio come dire, una scelta politica infelice, dai, un capitolo che dobbiamo chiudere, Oscar, o no? Perché... No, naturalmente adesso ci dirà che qualcuno che se sta dicendo che bisogna chiuderlo, allora gliela fai passare in cavalleria. La mia sintesi, l'ho già detto ieri, è una vicenda nella quale io sono stato non stupito che ieri Guy Verhofstadt, il presidente del gruppo ALDE, abbia dovuto fare marcia indietro, perché era inevitabile, perché la maggior parte dei partiti più forti iscritti al gruppo non avrebbero mai fatto passare quell'idea. Cioè, in realtà, da un punto di vista concreto, scusate, in ascolto, se crediate che sia una difesa dei 5 Stelle, non lo è. L'ha fatta più il presidente del gruppo europeo dei liberali democratici, sì, che ha varato un documento il 4, l'ha firmato con Grillo, sì, 6. Che giustamente poi, noi abbiamo, come dire, un'ottica, in Italia non frega niente. Ma quello voleva fare il presidente del Parlamento europeo, ieri si è coperto di melma, per così dire. Era una vicenda nella quale c'erano praticamente interessi concreti, sia del Verhofstadt, che voleva fare il presidente del Parlamento europeo, sì, gruppo 5 Stelle. Non mi strappo i capelli, però insomma è ovvio che c'era un grande problema. Te li vedi nel gruppo di chi sostiene l'euro, il federalismo europeo? Esatto, ecco, si diceva da complottisti all'Oden Comodi. L'esito è una roba, no? Che dice, mi spiace per l'ennesima volta, un po' dilettanti allo sbaraglio. Ecco, questo, ma Verhofstadt, peggio di loro, se posso, sì, dire. Una figura complessivamente veramente. Allora, va bene, comunque mettiti entriamo... nei panni però di chi ha votato e ha votato dicendo beh, se me lo dicono io mi fido, però anche se non mi fiderei, e dopo poche ore ha detto ma come cacchio ci chiedete di fare le scelte. No, esatto. Ecco, mettiti nei panni, no, diciamo, in questo dico, come dire, una cosa da chiudere, nel senso una tappa infelice nella propria esperienza. Hai politica. Letto che Renzi vuole il referendum alla CGIL, però così dicono i giornali, il mondo veramente, come vedi, è pieno di paradossi, però Perché vabbè, così si voterebbe prima, ma questa è un'altra, ho capito, ma con questa logica ciascuno vuole l'opposto della logica, capisci? Cioè, allora facciamoci caso, secondo me c'è una costellazione di vicende di questo tipo in cui il paradosso domina e la contraddizione è che ciascuno, giocando di sponda, tenta di portare a casa un interesse però diverso costitutivamente da quello che è, perché Renzi che dice fate il referendum contro il Jobs Act, mentre guarda la maggior parte degli esperti di diritto del lavoro renziani hanno sostenuto al contrario, che la Corte deve fare decadere. Adesso si trovano col leader che dice ma stupidi, dovevate dire che la Corte deve promuoverli. Vabbè, comunque vedremo domani. Oscar, salutiamo i nostri ospiti, sì, perché abbiamo qui l'ingegner Massimo Scura, che abbiamo già avuto in passato, è commissario per la sanità in Calabria. Buongiorno ingegner Scura e ben ritrovato. Buongiorno a voi, grazie di essere con noi. Come abbiamo il direttore generale dell'azienda ospedaliera San Camillo di Roma, Fabrizio Dalba. Buongiorno, dottor Dalba. Buongiorno a tutti. Buongiorno. Grazie, perché grazie la notizia, e partiremo da lei, che abbiamo letto su Repubblica, ci ha un po' colpito ieri, cioè 500 su 2.800 infermieri del San Camillo sarebbero, uso il condizionale, lei ce lo confermerà o smentirà, esonerati dal lavoro per il quale sono stati assunti perché hanno dei certificati medici. È così? Sì. Intanto i numeri sono questi, dottor Dalba? Allora, il numero grezzo assolutamente sì, corrisponde, sì. Il personale con delle inidoneità parziali, sì, è quello rappresentato nell'articolo. Non risponde al vero che questo sia stato personale sanitario messo dietro una scrivania. Questo certamente non risponde, cioè, al vero. Che fanno? Nel senso, continuano a fare la loro mansione divia, continuano a fare gli infermieri, però io parlo di infermieri, ma naturalmente questo riguarda tutte le figure dell'assistenza, gli ausiliari piuttosto che i tecnici, però in ambiti assistenziali compatibili con la limitazione. Faccio un esempio, un infermiere che ha una limitazione per la quale gli è inibito il lavoro notturno, ecco, naturalmente non potrà lavorare in un reparto di degenza, però può essere e è utile e proficuo in un'attività di day hospital, un'attività ambulatoriale e così via. Cioè farà magari, farà sempre l'infermiere ma di notte no, ecco. Ecco sì, perfettamente, quindi sì, questo rientra in quello che è la tutela del lavoratore nell'ambito della legge 81 a sua opinione quella percentuale non è così rilevantemente fuori media che avrebbe dovuto attivare i dirigenti e darsi un programma annuale di rientro? Guarderà, qui bisogna fare due ragionamenti, perché alcune valutazioni e gestioni possono essere fatte nell'ambito delle aziende e altre invece in una logica di sistema. Questo, allora, il tema dell'inidoneità è un tema che sta oltre le aziende, nel senso che questo nasce da un percorso di verifica sulla situazione individuale del lavoratore che porta a dire che ha alcuni problemi di carattere sanitario che non gli rende possibile di svolgere il proprio lavoro. Questo vuol dire certamente in un'organizzazione che non ti rende tutto il personale fruibile per tutte le funzioni, e questo certamente non è un problema serio, un problema di gestione, che però bisogna stare attenti a non scaricare sul lavoratore, nel senso che il lavoratore ha il diritto a avere attivato tutta una serie di tutele, così come pensiamo alla tutela sulla 104. Ma non stiamo ragionando di quello, perdoni, perché il tempo è limitato. Le ho chiesto ieri il sottosegretario Rughetti, mi ha detto adesso nel codice del lavoro pubblico che esce a febbraio, il decreto delegato, nei contratti noi renderemo obbligatorio per ogni amministrazione pubblica la pubblicazione dei dati temporalmente aggiornati, non solo dell'assenteismo ma anche degli inidonei e della legge 104, chiedendo programmi annuali di rientro per i dirigenti, che incatenano i dirigenti, per chi è fuori dalla media e elevato picco. Questo l'ha detto il sottosegretario sono impietosi. Guardi, io sono estremamente d'accordo sul tema della trasparenza, perché dietro a questi fenomeni ci potrebbe essere anche una percentuale, spero risibile, legata a comportamenti opportunistici. Detto questo, il tema del piano di rientro lasciato sulle singole aziende, adesso parlo da direttore di un'azienda, no? Bisogna capire se è la risoluzione del problema, perché certamente a noi dirigenti di strutture sta l'onere di gestire il fenomeno in termini di attivare tutto quanto necessario a garantire che i processi di concessione di questi benefici, tra virgolette, siano rigorosissimi, e questo assolutamente è il nostro. Questo sì, però dottor D'Alba, e qui vorremmo anche coinvolgere l'ingegnere Scura in Calabria, quando si legge che nel privato che fruiscono i diritti da 104 sono il 3% e nel pubblico si sale al 13%, o quando si legge sulla Gazzetta del Sud in Calabria che ci sono ospedali, aziende ospedaliere in cui le esenzioni sono al 29%, al 28%, ingegnere Scura, in Calabria com'è la situazione? Cioè questi numeri, uno di fronte a questi numeri che fanno registrare che qualcosa non va, cosa può fare tecnicamente? Allora, intanto buongiorno a tutti. Sì. In Calabria al 31 dicembre 2015 la media è di coloro che usufruiscono la 104, di tutte le specializzazioni, tutti i profili, quindi medici, infermieri, tecnici eccetera, è proprio del 13,0%. A questo va aggiunto il 9,7% che di coloro che hanno limitazioni, non possono fare la notte, non possono sollevare carichi, non possono fare questo e quest'altro, per cui alla fine la media di tutti coloro che hanno un qualche cosa che rende difficile la realizzazione dei turni, quindi del lavoro da parte delle aziende, è del 22,7%. Io condivido pienamente quello che Iachino ha scritto l'altro ieri. Iachino ha scritto sul Corriere, sulla Repubblica, Pubblica ieri. Quando dice la responsabilità prima è dei dirigenti. Ecco. Quindi va detto in modo chiarissimo, perché le leggi ci sono per il privato e per il pubblico. Soltanto che nel pubblico si chiudono uno, due, anche tre occhi. Che cosa abbiamo fatto in Calabria? Abbiamo coinvolto tutte le organizzazioni sindacali, sia del comparto che dei medici e dei dirigenti non medici, e abbiamo steso un accordo che i sindacati hanno definito epocale, nel quale il 13 novembre 2015, nel quale c'è scritto sostanzialmente come ci si deve comportare nei confronti di coloro che o hanno la 104 o hanno una limitazione sul lavoro. Allora, premesso che questo accordo è stato firmato da tutti i sindacati, ma non dai sindacati dei medici. Perché? Perché la prima regola che io ho diciamo richiesto e quasi sì. imposto, è stata la rotazione del medico competente. Ma perché, perché i medici secondo lei non hanno firmato? Cioè, per perché? Questo motivo, perché io ho preteso che il medico competente, che è colui che stabilisce la limitazione al lavoro dei dipendenti, la certificazione, venga immediatamente cambiato. Perché è logico che se uno sta lì in una posizione delicata per anni e anni, si creano poi... Posso dire una cosa, scura? Questa sua, posso dire, anche può apparire banale, semplice misura di rotazione è scardina incrostazioni consolidate. Quindi è un classico piccolo grande esempio, perché chi a casa dice voi volete generalizzare i processi con gli indipendenti pubblici, ce l'avete con tutti i dirigenti? Ha detto un medico sta lì da troppo tempo, vede, c'è il rischio che cada in tentazione, un bisturi, a cui reagisce di solito solo chi è malafede, come è evidente, però altrimenti ma gliene dico un'altra banale. Esatto. Allora, un infermiere che, come sentivo il direttore del San Camillo, un infermiere che non può più fare l'infermiere e quindi se ha dei problemi di sollevamento eccetera viene messo in attività ambulatoriale oppure va a fare l'impiegato. Io ne ho trovati tantissimi che sono, tra virgolette, imboscati nelle direzioni sanitarie, negli uffici, nei CUP, eccetera, eccetera, eccetera. Perfetto, il contratto di lavoro dice che se qualcuno passa a fare l'impiegato, ovviamente, siccome l'infermiere è di categoria D contrattualmente, mentre l'impiegato è di categoria C, la differenza retributiva da D a C viene ovviamente mantenuta, perché per contratto di lavoro non si può mai ridurre lo stipendio dei lavoratori, ma resta ad persona. Per cui se la categoria C ha un aumento di stipendio perché c'è il rinnovo contrattuale, c'è il passaggio di fascia, eccetera, eccetera, quella viene assorbita dall'assegno ad personam di differenza tra D e non aumenta. E quindi non aumenta, cioè lui nel momento in cui si sposta a fare il... Non aumenti, non aumenti. Si autoblocca lo stipendio. Tutto questo non è avvenuto. Mi aspettavo il finale. Per carenza di controllo. Cioè, venivano dati degli scatti non dovuti. Ecco, altra semplice. Però scusa, posso fare una domanda? Per esempio adesso quando lei dice sono stati dati, in quel caso il dirigente responsabile viene identificato al licenziato? Questo è un altro dei problemi. La legge lo consente. Non c'è nessuno che abbia mai attivato un percorso di tipo punitivo nei confronti dei dirigenti. Allora facciamo così, ingegnere Scura, no, perché dobbiamo andare un attimo in pubblicità. Si fermi qui sul ruolo dei dirigenti, perché abbiamo anche Fabrizio D'Alba che è un direttore generale e quindi è un dirigente, sulla possibilità o impossibilità dei dirigenti di intervenire, perché di fronte a numeri così impietosamente alti almeno uno può dire qui c'è qualcosa che non va, perché non è possibile che, ne so, che in provincia di Agrigento gli insegnanti siano tutti diabetici o ci sia un picco di diabete e hanno diritto alla 104. Qualcuno dovrebbe aprire gli occhi e dire forse c'è qualcosa su cui indagare. Vediamo, ripartiamo tra poco da qui. 24 mattino, attenti a noi due. Allora, mi sembra che la discussione stia facendo molto interessante, caro Oscar. Siamo con Fabrizio D'Alba, direttore generale dell'azienda ospedaliera San Camillo a Roma, e l'ingegnere Massimo Scura, che è il commissario per la sanità in Calabria. Eravamo arrivati al punto, ma i dirigenti che vedono tutto questo, qualcuno è mai stato licenziato? Esatto. Tra poco lo chiederemo a Fabrizio D'Alba, però c'è anche un ascoltatore, Massimiliano dalla provincia di Ancona, ci chiama. Buongiorno. Massimiliano, ci sente? Massimiliano, non lo so. Lo recuperiamo. Fabrizio D'Alba, intanto, ha sentito le responsabilità dei dirigenti che richiamava l'ingegnere Scura? Assolutamente sì, e condivido anche il tema della rotazione per esempio del medico competente, che è una figura centrale negli accertamenti. Però i medici non condividono, almeno lì in Calabria, i sindacati. In Calabria pare che non abbia firmato questo. Io non sono d'accordo, perché il cambio al sistema, ogni componente del sistema ne deve prendere coscienza dei problemi e affrontarlo, e quello è un modo di affrontarlo per togliere almeno quelle incrostazioni patologiche, ah, no? Del però ho sentito l'ingegner Scura dice dirigenti, cioè azioni disciplinari nei confronti dei dirigenti non si hanno notizie. Guardi, là, in questo sono anche qui allineato col commissario, però lui parla da commissario, quindi da capo della sanità di una regione, perché effettivamente per arrivare anche alla misura massima che può essere il licenziamento, a cui bisogna arrivare in alcuni fatti specie, in alcuni casi specifici, non è la singola azienda ma sono diversi i soggetti che devono concorrere a mettere insieme tutti i pezzi utili eventualmente a arrivare a quel processo. Perché io le faccio un esempio così capiamo come funziona. Sì. Il mio medico competente contesta una istanza presentata dal lavoratore, no? Il lavoratore fa un'istanza chiedendo, contesta questo e quindi non acconsente a quella proposizione. Si attiva un percorso di seconda istanza che esce dalla mia azienda e quindi va in l'azienda territoriale di conseguenza, che può ribaltare quanto dice il mio medico competente. Quindi quando diciamo se le rotazioni è necessario farlo su due aziende, perché il doppio livello va in qualche modo rimesso a norma. Fatto questo, secondo me il grande male in termini di unità è un altro: il fatto che le inidoneità, che sono per norma, per contratto, di norma temporanee, di fatto si consolidano. E questa è la cosa che non può andare poi, bene. Poi voglio dire, lei che è il direttore generale, poi avrà un problema se 500 infermieri non possono fare chi la notte, chi non può alzare un peso, cioè non so, poi il problema ricade su di lei, sul fatto che guardi, sui cittadini. Guardi, il problema è assolutamente su noi che organizziamo e su cui i servizi poi deve godere. Assolutamente sì, ma il fatto del fatto che sono in idoneità permanenti, questo è il problema, perché se uno avesse certezza e contezza che ha sempre 500, avrà per sempre quelle 500 persone che certe cose non le potranno fare, si adegua, organizza i servizi, a livello di sistema si sposta il personale in ambiti in cui si parla tanto di medicina dei territori, no? Probabilmente persone che non sono utili in un ospedale, in un territorio, possono diventare utili, però bisogna avere certezza che questa condizione soggettiva sia costante. Però qui no, ma è chiaro, però Oscar, la questione dei dirigenti non so. No, ma io capisco che il direttore generale di un'azienda ospedaliera può parlare con un tono diverso dal commissario della sanità in Calabria, e ci siamo capiti, è ovvio, ha facoltà diverse, è limitato dal fatto che ci sono altre aziende ospedaliere, non è lui che... Però invito Fabrizio D'Alba a capire la descrizione di una situazione nella quale dice ogni volta se io mi muovessi e sollevassi e facessi indagini amministrative, perché non è che si attiva solo se uno dei medici competenti rifiuta, lei le indagini le può fare amministrative, può disporre, dice sì, però io poi posso attivarle, ma attivo un processo a catena che va fuori dalla mia azienda, che io non controllo, e se non lo controllo poi le conseguenze negative sono che governerò peggio l'azienda e non meglio. Questa però, dottor D'Alba, con tutto il rispetto massimo per lei, lo capisco questo spirito, porta alla fine a essere prigionieri nel tempo del consolidamento di queste reti di problemi, perché alla fine c'è sempre un motivo che sta fuori, eccetera eccetera, per che cui impedisce che di ti impedisce di risolvere. Però non so, vediamo, Scura ci può aiutare su questo, perché diceva che nessun procedimento nei confronti dei dirigenti, è davvero così impossibile farlo, Scura? Assolutamente no, è chiaro che il problema che avete sollevato non è soltanto un problema tecnico, è un problema culturale. Si deve sempre partire dal concetto che in ogni azienda, io in questo non sono molto d'accordo col direttore generale, premetto che io ho fatto per 12 anni il direttore generale in aziende sanitarie in Toscana, e il problema è culturale, perché le due risorse più importanti di ogni azienda, pubblica, privata, eccetera, di servizi, di manufatturiera, sono i clienti, nel caso nostro gli utenti, e il personale, i dipendenti. Invece nel settore pubblico, anziché essere al servizio degli utenti, si è al servizio dei dipendenti. Questa è la logica dalla quale si deve assolutamente uscire. Anche perché numericamente i cittadini sono di più dei dipendenti, pur tutelando i diritti di tutti. Esattamente. Pur tutelando i diritti di tutti. Esattamente. Ora, i dirigenti in generale non se la sentono intanto loro di agire nei confronti dei loro dipendenti che non sono dirigenti. Le faccio un esempio pratico. Dialisi a Reggio Calabria, diciamo nella provincia di Reggio Calabria. Il direttore generale di quell'area decide di mandare tre infermieri da una zona ad un'altra, distante 30 chilometri, è previsto dalla legge Madia. Questi si rifiutano. Ok? Allora io, che devo comunque gestire un servizio, gli do tre infermieri presi, dico prendi tre infermieri da questa graduatoria, ma fai partire il, la dialisi a Reggio Calabria, perché altrimenti sette dializzati non avevano dovevano andare a Messina, ma si rende conto? Ecco, la domanda è, dico scusa al direttore generale, ma tu al direttore del distretto che doveva inviare questi tre infermieri hai fatto qualcosa? Ecco, hai risposta? Qualcosa? Risposta? Risposta no. Ah. E il direttore del distretto che doveva mandare i tre e si sono rifiutati ha fatto qualcosa nei confronti di questi tre? No. No. Allora, di che stiamo parlando? Allora, guardi che però abbiamo recuperato Massimiliano. Sposo lo spirito scuro. Abbiamo recuperato Massimiliano dalla provincia d'Ancona. Abbiamo 30 secondi. Pronto. Massimiliano, buongiorno. Ah, bene. Buongiorno. Io sono un medico del lavoro e sono quello che fa quel secondo livello di cui parlava il direttore generale. In realtà, secondo me, la discussione è interessante. Il problema grosso è che uno c'è una grossa differenza tra la 104, la legge 68 e le unità al lavoro. Non c'è dubbio. Due, non c'entra niente. Due, il discorso delle unità al lavoro è in realtà complesso. Perché quando una persona assume qualcuno e poi lo visita, questa persona può essere idoneo, non idoneo, parzialmente idoneo, e l'idoneità possono essere a lungo termine o a breve termine. Sì. Il problema è il medico competente, quando le visita e deve dargli il giudizio di idoneità, poi la collocazione non può trovare il medico competente, ma deve trovare l'azienda. Ed è l'azienda che poi, una volta che il medico competente gli dà il giudizio, deve riuscire a mettere. Ma io lo capisco. Massimiliano, solo un'osservazione. Ma com'è possibile che ci siano percentuali così distonicamente, esatto, statisticamente, esatto, tra lavoro privato e pubblico? Aspetta, qual è il problema? Il problema è che il medico competente, che è in staff con il direttore di un'azienda, sia noi facciamo la vigilanza sia sulle aziende pubbliche che sulle private, e quindi il medico competente che è in staff con l'azienda, è chiaro che deve interagire con il direttore generale. Quindi il problema è nel modo in cui il medico competente emette il giudizio, nel modo non, in cui emette non giudizio. Nella gestione sarà, ma comunque guarda, non c'è un lavoratore privato che accetti l'idea di proporzione di 1 a 5 per gli inidonei e per la 104. È così. Ma non voglio anche qui criminalizzare la categoria. Ci sono stati medici che sono finiti sotto inchiesta perché per 500 euro davano, senza generalizzare, no, ma insomma. Io dico una cosa, Oscar, per chiudere, siccome ce la prendiamo a Milano tutti con i ghisa, i vigili urbani, bravo, come ovunque, bravo, pensate quando ne trovate uno nel traffico, esatto, e ve la prendete con lui, che ce ne sono 482 inabili al lavoro e allora, sono imbucati. Conclusione mia di oggi, abbiamo detto per mesi a Roma, tronca, d'ora in poi diciamo per un po', scura, dai, che suona anche come scure, quindi no, l'ingegner scura, ci perdoni questa uscita. Allora, grazie a Massimo Scura, commissario per la sanità in Calabria, e Fabrizio D'Alba, direttore generale al San Camillo di Roma. Ci imbuchiamo a un caffè? Noi siamo gli imbucati del sole. Dopo gli imboscati di stato. No, ci imboschiamo al bar, dai. Va però bene. Paghiamo. Ciao.